tuo parenzo sembrate a volte i deregi evoluti, avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Silvio forever sarà Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente. Alcuni giorni fa io ho detto che la storia di mio padre è una storia politica e imprenditoriale, non di certo criminale. Alcuni hanno colto la questione vera, altri fingono di non capire. Quello che mi chiedo è se veramente sono convinti che Silvio Berlusconi sia un delinquente, perché hanno fatto con lui gli ultimi due governi? Sarà popolo di libertà, la musica va, un unico canto. Alla fine c'ha ragione lei, diciamo la verità, c'ha ragione la signora Barbara Berlusconi quando dice: se pensano che Berlusconi sia un delinquente, perché ci hanno fatto gli ultimi due governi? Silvio il carisma che ha. Beh, volevo farvela riascoltare dell'altro giorno, però ancora non l'avevo sentita bene. Me la faccio riascoltare. Tecnicamente ineccepibile la signora Babi Berlusconi. Io la chiamo Babi. Eh beh. Babi. Che c'entra Babi? Perché Babi? Nessuno la io chiama la chiamo Babi. Babi. Basta. E perché? Io la in famiglia noi la chiamiamo Babi perché non sai niente tu. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa, va. Frammenti di voci. Avevano, scusi signor Cucciari, poi vado avanti con le vie. Hanno annunciato un grande ospite tra un po'. Io sono carichissimo. Aspetta. No, come aspetta? Aspetta. Frammenti dall'inaugurazione della nuova sede di Forza Italia. Frammenti. Va bene. Dall'inaugurazione della nuova sede di Forza Italia. È il demonio quel posto, è il demonio. Partiamo dalla brambilla. Ce l'ha una stanza, sì, ve l'ha notata. Anche il camino, visto. Anche il camino. La stanza col camino per la brambilla. Mussolini, che ieri a un certo punto ho visto avvolta in una bandiera di Forza Italia, in una trasmissione, avvolta in un drappo, in una bandiera. Si affaccia da qui dal balcone. A me me lo volete dire? No. Io non mi affaccio, sennò già nasce con qualche altra situazione. Beh, però la più divertente è la signora Pelino. Te la ricordi la signora Pelino? Che poi pare che abbia un debito, un buffo di non so quante migliaia di euro con un negozio di Pescara, perché ha comprato degli abiti e non l'ha mai pagati, sembra. Piccolo buffo, come dicono a Roma, piccolo buffo lasciato dalla signora. Senti questa qua, ha una foto di Berlusconi, senti. Una foto ce l'ha in ufficio. Sempre. Non solo nel mio ufficio, anche nella mia casa. Anche nel cuore. Quella soprattutto. Ma ora io dico una cosa, ma perché uno va bene tutto, no? Che uno dice, vabbè, è stato un grande leader, eccetera, uno può pensarla come vuole nella vita, no? Però voi mi dovete spiegare per quale stracazzo di motivo uno deve prendersi una foto di Berlusconi e mettersela a casa. Cioè, voi me lo dovete spiegare, va bene tutto, dice, io lo considero, no, un genio, una persona fantastica, strepitosa, meravigliosa, ma per quale cazzo di motivo? Parenzo, dimmelo tu, uno deve avere la foto a casa, se non sei un... Sei un parente, e dai! Vabbè, nulla questo. Dai, su! Ma quelli che hanno la foto e di dai. Quelli che avevano la foto, ad esempio, dei Duran Duran. Io sono andato, sì, d'accordo, Duran. Io sono andato a casa di un sacco di gente, che sta in Forza Italia, è stata in Forza Italia dal 94, con Berlusconi dall'inizio, ma non ce l'hanno la foto di Berlusconi, abbi pazienza. Cioè, chi c'ha la foto? Io dico, voglio dire solo una cosa. Chi ha quelli di Forza Italia che hanno la foto di Berlusconi a casa, se non sono parenti, sono malati. A meno che non ci sia la foto di Berlusconi, ovviamente, cioè, no, foto di politica, di insieme, eccetera, quello è un altro discorso. Ma la foto, la singola foto così, dai, su. E vai. Oh, ma volete cambiare sta cosa? Dice e vai, no, e dai, dice e vai, e andiamo. Vabbè, Sant'Anché, dai. Forza! Mi convincono la senatrice Puppato e il dottor Gomez, che Berlusconi uguale al Capone, che Berlusconi che in questo paese è stato accusato di tutto, da essere mafioso, di aver partecipato alle stragi, di aver, cioè ci manca che dicano che ha ammazzato 10 bambini, e poi io credo che qualsiasi accusa è stata fatta nei confronti del presidente Berlusconi. Fiducia ci dà. Vabbè, Gasparri come Putin. Senti Gasparri come signor Putin. Putin. Gasparri. Senti come Putin. Bellissimo. Se Berlusconi fosse gay lo lascerebbero in pace. Perché verrebbe applicata la legge anti-omofobia, si direbbe di non discriminare, quindi potrebbe invocare la protezione. Con Putin? Ma era una battuta quella di Putin, però a parte tutto, sicuramente sarebbe stato sull'onda del politicamente corretto. Libertà. La musica va. Feltri contro Fiorello. Fiorello, eri drogato, pieno di coca e nessuno ti ha rotto i marroni. Senti. Al quale Fiorello ricordo che quando egli era drogato, drogatissimo, pieno di cocaina, la cocaina gli usciva anche dalle orecchie e rischiava di scomparire definitivamente dalla scena, nessuno di noi ha osato, per un sentimento buono che ciascuno di noi dovrebbe avere, cioè abbiamo evitato di sfotterlo. Siamo stati zitti, non abbiamo parlato. Silvio Realtà. Vabbè, però, caro Vittorio, quello fa il comico, su, dai, quello fa satira, comicità, se la piglia con tutti, dai. Comunque, ecco qua il tuo ospite, caro Parenzo. La Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci. Abbiamo una lunga serata, oltre le 9, no, non è vero, finiamo alle 9. Per te, tutto per te, padre Gabriele Amort, buonasera. Buonasera. Come sta l'esorcista più famoso al mondo, si può dire, padre Amort? Si può dire, però famoso non vuol dire che valga. Il più famoso, ma il più schiappa. Com'è il più schiappa, scusi? Quello che vale meno. No, padre, ma non si butti così giù adesso. Non, chi l'ha detto? Lei ha fatto quanti esorcismi ha fatto nella sua vita? Riusciti? Oh, beh, migliaia. Siamo sui 100.000 o no? No, meno. Non so quanto, non ci tenevo più dietro. Sono 17 anni, sì? 27 anni intensi di esorcisti. Di esorcismi. Ma qualcuno ha fatto una cifra, 50-70.000. Lei è ancora in attività? Quante persone ha sotto mano in questo momento? Oh, adesso ne tengo poche per volta. Poche per volta. Mi è capitata una cosa strana. Ogni anno che passa c'ho un anno di più. Sì. E quindi adesso sì, ho già passato gli 88. Quello solo sappiamo. E allora devo usare più prudenza, sì, con le mie forze. Parenzo è particolarmente, particolarmente affascinato dal tema del demonio. Dal tema del demonio. Sì. Dove si annida esattamente ora il demonio? Dove si annida? Il demonio non ha posto. Non ha posto. Beh. Perché spazio e tempo sono due dimensioni umane. Sì. Il demonio è un puro spirito. Sì. San puro. Paolo è quello che ce ne dà, credo, la spiegazione migliore. Sì, San Paolo. Dice, sì, noi non dobbiamo lottare contro creature di carne e sangue, sì, ma contro gli spiriti del male, sì, che ci circondano nell'aria. Ah, e okay, siamo avvolti. Siamo avvolti. Quindi il demonio ci avvolge sempre. Hai capito? Nella sua lunga carriera lei ha avuto sotto mano anche dei politici posseduti dal demonio, padre Amort? Qualcuno, ma guardi, direi proprio nomi robusti, cioè peones, dice lei. Sì. Peones. Perché ho gente comune. Gente comune. Senta, ma quello, chi si proclama omosessuale, no? Ieri addirittura alla Camera dei Deputati si sono baciati dei parlamentari. Lei direbbe che è posseduto dal demonio un omosessuale, un gay? Beh, è uno che agisce, sì, indubbiamente dietro suggerimento del demonio. Non c'è bisogno di essere posseduti. In che senso? Uno può agire, sì, in base ai dettami del demonio, senza essere posseduta. Ma perché... Guarda, le faccio un esempio che per me sì. È, ma perché un omosessuale, mi scusi padre Amort, perché un omosessuale agisce in base al demonio, scusi, su suggerimento del demonio, come dice lei? Perché dove c'è il male c'è sempre il suggerimento del demonio. E allora essere gay è un male? Certamente, certamente un male contro natura. Un male contro natura, male... Un male contro natura. Dunque, due uomini che si baciano, per lei che cos'è? Una roba terribile, una roba tremenda, è proprio la dimostrazione dell'esistenza del demonio. Sì, è una dimostrazione contraria al bene naturale, poi bacio, ma contraria alla, sì, alla natura. E che si può fare? Si può guarire, secondo lei? Cioè, c'è un modo per guarire? È una malattia? Che cos'è? Certo. Certo, dipende dall'abitudine, dipende da quello che uno vede, sì, dipende dalle compagnie che uno frequenta, dipende da come uno sa gestire la televisione e internet. Ah, beh, perché televisione è piena di froci? È piena di gay, padre Amort, la televisione? Ah, sì, siamo sempre contro natura. Ah, la televisione? Contro la legge di Dio, per cui siamo sempre sotto suggerimento, non dico sotto possessione. Però suggerimento. È un'altra cosa. Suggerimento. Ma sotto suggerimento del demonio. Cioè la televisione oggi fa propaganda omosessuale, dice lei? La propaganda purtroppo sì, ed è per questo che ci troviamo in un mondo così corrotto, beh, non c'è dubbio. Quasto. Scusi un attimo, padre Amort, ma c'è una trasmissione che secondo lei fa proprio propaganda omosessuale, propaganda per i gay? Lei ha una trasmissione? Ma io guardo mai né televisione né internet, e sto bene lo stesso. La zanzara stronza. Eccoci qui alle 18:49 di questo magico giorno che è il venerdì, caro Parenzo, in compagnia di un'autorità assoluta in fatto di Satana, esorcismi e cose del genere. Ma adesso non esageriamo. Padre Gabriele Amort. Io ho una particolare predilezione per padre Gabriele Amort, che è l'esorcista, diciamo, il prototipo dell'esorcista. È anche il presidente onorario dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti. Vorrei subito chiedere, scusi, per concludere questa... Ma anch'io voglio capire però una roba dal padre, perché voglio capire, ad esempio, se secondo lui la signora Santanchè ha un che di un po' satanico, forse? Sì. È un po', quando la vede in televisione, se la vede, anche se lei ha detto la che non vede mai, la Santanchè la conosce, signor Amort? A dire la verità, non l'ho mai vista. Lo capisco. Non l'ho mai vista. Senta, vogliamo dare una bella benedizione alla nuova sede di Forza Italia che è stata inaugurata? Bravo. Volentieri. Che il Signore vi benedica tutti. Vi ispiri sempre il bene, ossia ciò che conformi alle sue leggi. Gesù ci dice: chi mi ama osserva le mie parole. Osserviamo le parole del Signore e allora abbiamo la certezza di essere sereni e sani su questa terra, perché il Signore ci vuole bene anche su questa terra. Certo. Scusi padre, ma certo, però scusi padre Amort, lei qualche tempo fa disse delle cose su Arcore, insomma, speriamo che lo stesso spirito, no, maligno non aleggi anche su Arcore e sulla nuova sede di Forza Italia, no? Che dice? Speriamo. Perché che c'aveva Arcore? Non so che cos'è. Arcore, la residenza di Berlusconi dove c'erano le feste, sa, dove si svolgeva? No. Di questi personaggi. Ma come non ne sa niente? Sono famosi, ma non alla mia portata. Ma un politico posseduto dal demonio oggi, secondo lei, chi è? Guardi, non vedo politici posseduti dal demonio. Vedo politici che si fanno suggerire dal demonio. Per esempio? Senza avere la possessione. Tutti quelli che sono favorevoli a leggi contrarie alle leggi di Dio sono tutti sotto suggerimento del demonio e sono tutti posseduti in spe, ossia avviati all'inferno. Addirittura. Perché quando uno va contro le leggi di Dio, la conclusione poi è quella lì. Ma scusi, uno come Grillo, per esempio, no? Beppe Grillo, lo conosce lei, Grillo? No. No, come non lo conosce Grillo? Nominare. Ma come l'ha sentito nominare? Padre Da, morto su, dai, il presidente della Repubblica. Guardi, io sono uno che non guardo mai né televisione, né internet, né giornali, non ne ho bisogno. Ma come, il presidente della Repubblica lo conosce? No. Ma come? Padre Da, morto, non è possibile, lei non è fuori dal mondo, lei è dentro questo mondo, se lo vuole esorcizzare è dentro questo mondo, deve essere dentro questo mondo. Scusi, Papa Francesco, per esempio, che apre agli omosessuali, no? Ha fatto delle aperture, allora anche lui, anche lui è sotto suggerimento demoniaco, e dai, o no? Beh, non mi pare che abbia aperto gli omosessuali. Beh, come no, come no. Ho detto una mezza frase, diciamo, distensiva. Però un po' sì, uno che cerca la distensione, l'accordo più che si può, però le leggi di Dio sono quello che sono e non cambiano, non cambiano, ma non cambiano. Scusi, se sono contro natura gli omosessuali, secondo lei, allora sono peggio degli animali, perché gli animali appartengono alla natura, mentre gli animali fanno parte della natura. Gli omosessuali sono contro la natura. Sono contro la natura. Mentre gli animali fanno parte della natura, sono o no? E infatti gli animali non fanno certe porcherie che fanno gli uomini. No, padre, morte su. No. Padre. Ma professore, ma che roba è? Padre, ma non si può, perché fanno delle porcherie, scusi, gli omosessuali? Perché fanno cose che sono contro le leggi di Dio. Ma lei ha mai esorcizzato un omosessuale? No, non è da esorcizzare, è da convertire. E come? Convertire, il che è un'altra cosa. Da convertire addirittura. Perché io esorcizzo coloro che hanno dentro di sé una influenza o una possessione diabolica. Mm. Ma coloro che vanno contro le leggi di Dio non sono da esorcizzare, sono da convertire. Ma scusi, da convincerli a osservare le leggi di Dio. Ho capito, ma anche dicendo chiaro e netto che alla fine della vita c'è il paradiso e c'è l'inferno, e chi va secondo e loro vanno all'inferno, e loro vanno all'inferno, va al paradiso, e invece chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto dritto. Dunque gli omosessuali e i gay vanno all'inferno dritti dritti. Sì. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo che è ancora te, sì. Sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist. La zanzara all'altro, una botta nel braccio e poi sono stata prima nominata io il mio lavoro, qual ci è? Mancherebbe, sono dipendente del Partito Democratico. Ah, hai capito? Okay. Ah, allora è una garanzia, è curva questa. E il mio lavoro è un lavoro sacrosanto, come tutti i lavori. Sacrosanto è ammazzare. E sono un senatore, allora, della Repubblica. Dato che lei ha parlato, e sono stata nominata nella giunta per le elezioni. Sono stata nominata nella giunta per le elezioni dal presidente Grasso, avendo come tutti gli altri senatori, che non sono tutti avvocati. Come ti stendi nel letto? Quel noio. Erano Mussolini versus Pezzo Pane, se non ve ne siete accorti, Senti Corsaro di Fratelli d'Italia che cosa dice a Scalfarotto, senti. Io Corsaro. Io faccio parte della natura, volevo far sapere a Corsaro, per quanto lo renda, come dire, stupito. Io sono la natura. C'è un piccolo, particolare che con la tua espressione di affettività personale. Che è naturalissima, perché non è che vengo dal laboratorio. Perfetto, stiamo nell'ambito della natura. Sì. Con la tua sensibilità personale, la tua sfera affettiva personale, il tuo orientamento sessuale, tu, per fatto tuo, non avrai la possibilità naturalmente di avere dei figli. Perché non ho degli spermatozoi che... Non avrà... Io i figli li posso fare con molte tecniche, guarda. Ah, Corsaro. La tecnica! Io sto parlando di natura! Ma anche con la tecnica della nonna. Vedi che io sto parlando... Vedi che io sto parlando di natura e tu stai parlando di tecnica. È lì che voglio arrivare. Ancora, ancora. a nessuno può essere consentito di sovvertire i diritti naturali. E queste sono le due queste sono le posizioni in campo, però, ma saremmo ancora a tirare le nostre donne per i capelli con la clava e la pelle di leopardo noi, se fosse per Corsaro il diritto naturale. Beh, non ha tutti i torti il signor Scalfarotto, cioè questa cosa dei diritti naturali, molte cose cambiano nella vita, nella storia dell'umanità molte cose sono cambiate, cioè, e che dai, sentiamo TG3 anche se bisogna cambiare titoli, anzi bene, un'ottima notizia, lo Stato, il governo, ma io dico lo Stato ha mandato altri 200 militari in Val di Susa, 200 soldati in Val di Susa, 200, cari amici, però Travaglio dice anch'io saboterei i cantieri della TAV, sentite. Ma come diceva Longanesi, Perino vuole fare la rivoluzione d'accordo con i carabinieri, fa un po' ridere. Se uno vuole fare degli atti di sabotaggio, tagliare qualche recinzione, insomma, non c'è niente da scandalizzarsi. Io probabilmente se vivessi nella Valle di Susa e stessero per stuprarmi il luogo dove io vivo, farei la stessa cosa. Spegni la luce, passa. E vabbè, titoli TG3. Ti ha beccato, ti ha beccato. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Letta deficit oltre il 3% e PIL peggio del previsto per colpa delle instabilità, risolveremo entro l'anno con poche correzioni. Comuni in allarme, Fassino, presidente Anci, senza la prima rata dell'IMU stipendi a rischio, ma il governo assicura i soldi sono in arrivo. Napolitano, fermare lo scontro tra politica e giudici, basta attacchi alle toghe, ma dai magistrati più sobrietà, il mio è un mandato solitario. PDL all'attacco su giustizia, in Italia non c'è stato di diritto e sull'IVA se c'è l'aumento non c'è più governo, il ministro Quagliariello ospite del TG3. Epifani apre l'assemblea PD, è inaccettabile che il PDL continui a ricattare il governo, no all'aumento dell'IVA, congresso ipotesi 8 dicembre. Altri 200 militari inviati a proteggere il cantiere dell'alta velocità dal carcere, minacce delle nuove BR per Alfano, la TAF si fa. L'avidità del denaro è la radice di tutti i mali, dice oggi il Papa, che poi torna sull'aborto, è il prodotto della cultura dello scarto, la vita va difesa. Dicono di voler proteggere la Costituzione dall'assalto e di chi la vuole distruggere, si arrampicano sui tetti di Montecitorio. Poi sentite però l'articolo 21, la senatrice Taverna, nada, non lo conosce. Adesso se io le chiedessi qual è l'articolo della Costituzione che si occupa di libertà di stampa, per esempio. Sta facendo un esame? No, e siete voi che lo volete fare addirittura agli elettori. Ma io credo che quello che Grillo vuole dire dicendo la frase che lei ha letto e che c'è bisogno di una maggiore informazione. Io leggo sul programma di 5 Stelle esame obbligatorio per ogni rappresentante pubblico sulla Costituzione. L'articolo della Costituzione che parla della libertà di stampa. È l'articolo 21. Non lo sapeva la signora Taverna, amici miei, la signora Taverna pungolata da Milano, Marco da Milano dell'Espresso, su, dai uno, cioè non puoi fare cioè, queste robe qui, non puoi difendere la Costituzione, poi non sai le basi, l'articolo 21, dai, almeno io, cioè io non mi avventuro in queste cose, capito? Cioè non è che alcuni articoli non me li ricordo nemmeno, però non è che sto lì col feticcio della Costituzione, a me della Costituzione non me ne può fregare di meno. Cioè, questo è il punto, se la cambiano, se cambiano la forma di Stato, la forma di governo, va benissimo, l'importante è che ci sia la libertà di dire quello che vuole, l'importante è che ci sia la libertà di espressione, di parola, di movimento, eccetera eccetera. Vabbè, sti titoli li abbiamo mandati, sì, li abbiamo mandati. Giuseppe da Trento, buonasera. Buonasera a lei, Cristiani. A lei e a tutti gli affiliati del club. Quale club? Il club Zanzara. Zanzara, ormai chi la segue è come un club, anzi di più. Beh, i club sono piuttosto ristretti. Comunque, va bene, Giuseppe, va. Un club. Allora. Allora, veloci però, Velocissimo, guardi, io voglio dire che bisogna essere un po' folli a pensare che Berlusconi possa essere stato un delinquente. Perché qualunque delinquente di mezza tacca avrebbe capito che con un processo dopo l'altro non era il caso di far approvare quella legge capestro che l'ha portato alle condizioni di cui vediamo e di cui sappiamo. Quei quattro coglioni di cui si circonda dovrebbe cacciarla a pedate, a calci in culo. Ma chi? E non è, Berlusconi, non, ma come, scusa, ha fatto approvare, chi è che l'ha fatto approvare quella legge? Non riescono ad approvare una legge in Italia? E adesso hanno approvato in 448 la legge Severino che l'ha messa al tappeto. Ma dove erano quei quattro coglioni che lui ha costruito? Deputati, senatori, Giuseppe, quello che caccia pedate, calci in culo, adesso che c'è la nuova Forza Italia, sì, nessuno deve candidare di quei coglioni, 80, 120 deputati e senatori che non hanno capito, avvocati, esperti, non hanno capito che lo portavano al capestro. Ma guardi che è una cosa che si domandano, un po' duro, ma è una cosa che si domandano tutti da anni, cioè da tempo, Giuseppe, perché perché deputati e senatori hanno fatto approvare la legge Severino? Anzi, c'è chi dice che non l'hanno nemmeno votata, ma in realtà c'era un consenso. Ma io non lo so, soltanto che sta facendo parte del governo, avrebbero dovuto creare tutti i presupposti perché questa non andasse approvata. Grazie Giuseppe. Mauro da Como, buonasera. Beh, ma quella legge era nata sull'ombra dello scandalo Fiorito, Mauro. Buonasera. Se ci fosse ancora Padre Amod in diretta, spero, sì, che comunque stia sentendo. Comunque mi interesserebbe sapere il suo parere, dottor Cruciani. Io sono sempre stato convinto che Silvio Berlusconi non è che sia posseduto dal male, ma agisca, cioè ci sia il male proprio dentro di lui. Parlo da un punto di vista. Sì, però scusi un attimo, signor Mauro, questo lo può dire Padre Amort perché fa l'esorcista, ma se me lo dice lei, caro Mauro da Como, cioè se lei mi dice se è convinto che Berlusconi è posseduto o comunque agisca in base che ci sia il male dentro di lui. Dai, Mauro, su, se me lo dice lei, non le mando un'ambulanza, gliene mando quattro, dai. No, volevo sentire il suo parere. Ma che parere? Non c'è da avere pareri su queste minchiate. Su, Franco da Roma, buonasera. Mio parere. Buonasera. Andiamo. Ieri il dipendente Giarrusso, sì, di 5 Stelle, in una trasmissione su Rai 3, sì, ha detto, menzionando il cavaliere Berlusconi, pregiudicato, si è sciacquato la bocca con la parola pregiudicato. Ma mi chiedo, il loro leader, Beppe Grillo, mi pare che sia stato condannato per omicidio colposo e diffamazione. Mi pare che pregiudicato sia anche il loro leader. Beh, se non sì, diciamo, se uno vuole applicare questo termine, sì, in senso negativo, in senso dispregiativo, come fa sicuramente Giarrusso, non c'è dubbio che anche Grillo sia un pregiudicato. Eh sì, perché Giarrusso lo ripete spesso e volentieri, si riempie la sua bocca dicendo pregiudicato. Un'altra cosa, Cruciani, mi scusi, infatti l'altra mattina nel programma, nella vostra emittente, è intervenuta un politico di sinistra e, parlando sempre della vicenda Berlusconi, ha detto che la frode fiscale è gravissima. Allora io mi chiedo, no, da cittadino, se la frode fiscale è gravissima, l'omicidio, la violenza sessuale, la strage, il naufragio, che cosa sono? Beh, che c'entra, scusi, non ho capito. No, che si fa? Che si fa? Un elenco delle cose gravi? Cioè, certo, perché lei ha detto la frode fiscale è gravissima, scandendo molto bene questa parola. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? È un politico donna della sinistra, non ricordo il nome. Non è gravissimo, perché se è gravissimo la frode fiscale... Vabbè, ma adesso non stiamo qui a dire gravissimo, no, quello, no, non è gravissimo, no, quell'altro, quello è più grave, quell'altro è meno grave, su, Franco, dai. È improprio il modo in cui l'ha detto. Un'altra cosa, mi scusi, Cruciani. Poi? Il presidente Boldrini non mi pare sia neutrale, imparziale. L'altra volta è intervenuto un... C'ha la fissazione di bacchettare i 5 Stelle quando qualcuno, o comunque chiunque, si osi parlare di Napolitano, evidentemente ha un rapporto col presidente Napolitano, e si è piccata per una frase utilizzata da Beppe Grillo dicendo che ha offeso le donne, ma non c'entrano nulla le donne. Non è che se uno offende il presidente della Camera sia che offende le donne, cioè semplicemente attacca, al massimo offende, se di offesa si tratta, al massimo offende la Boldrini, cioè non è che ha offeso tutte le donne. Cioè, c'è questa fissazione da parte di alcune persone, dice, siccome hanno attaccato il presidente della Camera che donna, allora hanno offeso le donne. Non c'entra nulla, non c'entra niente. Cornute che non sono altro, questi sono dei cornuti. Zanza, zanza, zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Io l'ho dato Gesù Cristo, sempre. Zanzare, una parola d'uma di te più vista in cintere se no. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Achille da Torino, buonasera, dica. Ciao Cruciani, è un po' di anni che ti ho chiamato. Sono stato un po' di anni che ti ho chiamato, che vuol dire? Un po' di anni fa ti ho chiamato. Sì, sono passati alcuni anni. Me ne sono fatto una ragione, insomma. E ti ho ritrovato in una forma sbagliata, ma completamente diversa. Sì. Vabbè, adesso qui non è un lettino dello psicanalista, cioè... No, no, ma basta che cambi il target di Confindustria che ti paga. Ma questi sono cazzi nostri, se lei ha voglia di parlare con noi, bene, altrimenti... Io voglio di parlare con voi perché siete due persone intelligenti. Bene. Voi come mettiate al servizio della collettività l'intelligenza su questo? A me non me ne frega niente di mettere al servizio della collettività, capito? Ma io voglio che le faccia una lezione di come del mio mestiere, no, oppure no? Non sarebbe equa, perché lei decide di mettere giù il telefono e quindi non c'è. No, ma io non decido affatto di mettere giù il telefono, però questo non è un lettino da psicanalista, non è che stiamo analizzando quello che è avvenuto negli ultimi anni, non ce ne frega niente, però se lei vuole continuare io la lascio pure continuare in libertà, non è un problema. Guardi, volevo rispondere alla dichiarazione di Barbara Berlusconi. Berlusconi, sì. La quale si stupiva del fatto che considerassero suo padre un criminale. No, non si stupiva, vabbè, quello è un altro discorso, lei difende il padre perché non lo considera un criminale, esatto, vabbè, d'accordo. Esatto. Io volevo provare. Ma non c'è nemmeno da commentare, credo, lo diamo per scontato, no? No, ma io penso che la realtà si è vista con occhi disincantati, parli più delle dichiarazioni, dei punti di vista di chi è, come vabbè, dire, molto coinvolto. Adesso la che cosa fa lei? Se vuole ricordare la condanna definitiva, eccetera, eccetera. No, bravo, no, che genialità. La realtà dice che se suo padre è stato considerato un criminale, sì, e dagli altri, sì, significa che anche gli altri sono dei criminali, semplicemente che non c'è una sentenza che lo certifichi. No, non ho capito nulla, scusi, mi spieghi, lei che è un genio, è un professore, è un maestro, è un... No, assolutamente, allora, io c'ho la terza media, Cruciani. Mi spieghi quello che ha detto, perché francamente non l'ho capito. Provo a vedere la realtà dall'altra parte, perché vedere la realtà nei panni di Barbara Berlusconi... Vabbè, ho capito, ma Barbara Berlusconi cioè, ha detto che non considera il padre un delinquente, ma questo insomma è una cosa scontata, poi ha detto invece, e secondo me... guardi, oggi persino Marco Travaglio scrive che Barbara Berlusconi ha ragione, cioè attacca il PD dicendo che hanno fatto due governi insieme a un delinquente, questo in sostanza dice, è una provocazione ovviamente, no? Cruciani, non mi dice mica che anche lei sta a dare retta a quello che dicono, adesso è un pretesto per farci due parole eccetera. Ma sappiamo la stampa che cos'è in questo paese, sappiamo chi ha fatto i governi con Berlusconi e che gli ha fatto tutti i favori di questo mondo. Ma scusi, tutti. Cosa c'entra questo? A parte che lo sappiamo tutti, questa cosa lo sappiamo tutti. Ma che vuol dire lo sappiamo tutti? Lo sa lei, tutti. Sta esprimendo la sua opinione, non è lei non è interprete di nulla, come io non sono interprete di nessuno. Marco Telma si dà del no, io mi do del loro. Ah, bene. Vabbè, Achille, vuole andare avanti con qualche cos'altro oppure dobbiamo continuare con questa cosa? No, qui nessuno capisce nessuno. Volevo dirle, mi colpì molto nel 2001 quando Berlusconi vinse le elezioni contro nessuno, cioè contro Ciccio Rutelli. Sì. Mi colpì molto una dichiarazione sulla macchia di Michele Serra, il quale dice: io non ho paura di Berlusconi in sé. Io ho paura di Berlusconi in me. Sì, e che è una frase di Gaber, allora? Di Giorgio Gaber. Vabbè, ma che vuole dire, Achille? Ma lei sta impazzendo oggi? Ma è venuto qua a prenderci per il culo oppure vuole parlare di qualcosa di serio? Non ho capito, di che stiamo parlando? Beh, che è ora che ci svegliamo un po' tutti quanti. Loreto da Teramo, buonasera, signor Loreto da Teramo. Ci svegliamo tutti. È ora buonasera. Che lei si fa fanzonellino, mi sa. Achille, salutato Gesù Cristo. In anticipo, Loreto da Teramo, salutato Gesù Cristo. Va bene, d'accordo. Sempre. Eh sì, ripeto le parole sempre di Padre Amor. Sempre sia lodato. Niente, io chiamavo perché l'ho ascoltata quando lei intervistava Padre Amor. Sì, allora? E sinceramente sono rimasto male. E perché? Perché qualche volta lei, cioè Padre Amor è una persona anziana. Sì. Ma sicuramente si è difeso benissimo. Da che cosa? Sì, ma lei quando insisteva sul fatto che se gli omosessuali fanno peccato, è certo che fanno peccato per il cristiano. Io intanto le devo dire che sono cristiano ortodosso, non sono cattolico. Ortodosso, sì. Ma conosco Padre Amos da quando ero bambino, perché dovevo entrare in seminario con la società San Paolo, poi non è stato così. Vabbè, allora Loreto, a parte questo. Ma chi è che l'ha trattato male? Nessuno l'ha trattato male, Loreto, nessuno l'ha trattato male. Guardi, l'ha trattato come si tratta una persona anziana, che quasi voleva portarlo per mano, voleva succedergli delle risposte. Va bene, Loreto, grazie. Nicola, provincia di Livorno. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, io a proposito dell'omosessualità volevo dire questo, che sì, a me le donne omosessuali mi fanno tanta tenerezza, sì, però gli uomini mi fanno un po' schifo. E vabbè Nicola, ognuno... Possono mettere il naso nella cioccolata, quella di Luzzatti per intenderci, non è quella cosa, no? Non ho capito, scusi Nicola. Ho detto che potrebbero mettere il naso nella cioccolata di Luzzatti. Potrebbero mettere il naso nella cioccolata? Quella per intenderci che mostra Luzzatti in televisione. Cioè, no, Parenzo, tu che sei un po' più, cioè, un po' più tecnico su questa cosa. È la cacca. Sì, e allora? Sì, è tutto qui, mi fa schifo per quello. Ma che gliene frega a lei, scusi? Come me ne frega a me? Ma che gliene importa a lei? Lei è omosessuale? Posso, ma scusi, se io posso dire la mia, l'ho detta. Ma che cos'è che le fa? Io non capisco cos'è che le fa schifo. Francamente, non riesco a capire cosa le fa schifo. Vabbè, non ho avuto manco il coraggio di dirlo. Caterina da Milano, dimmi. No, io capisco che il venerdì, siccome domani non si lavora, la gente si dà all'alcol. Però, amico mio, abbiamo iniziato con delle tre frasi con della gente che adesso vediamo la prova del palloncino da segnalare se sono in macchina al ritorno, perché uno si deve allontanare di chilometri dalla zona dove telefonano questi signori. Questi Caterina signori. Da Milano, Caterina. Ma che Caterina, sì, buonasera Cruciani, volevo tornare un po' all'inizio della trasmissione, sì, perché non perché tenere la foto di Berlusconi in casa. Ma questa è una frase pronunciata dall'onorevole Pelino, io ho la foto di Berlusconi in casa eccetera, va benissimo, la foto di Berlusconi, spero non da sola sul comodino, cioè magari che ne sappiamo, magari gli piace, però in generale in certi paesi si tengono, come nel Principato si tiene il principe sia nei luoghi, il Principato già privati. Principato, nella ex Jugoslavia c'era il Tito, famoso Tito, che si teneva, ma appunto Tito, Tito, cioè, stiamo parlando di Tito, però c'era Mussolini, va bene, c'era Mussolini. A c'è chi piace Berlusconi, scommetto che anche lei c'è la Cruciani a casa, magari la tiene in bagno. No, guardi, non ce l'ho la foto di nessuno io. Non ho la foto di nessuno. Le assicuro. No. Ma perché lei pensa che io abbia la foto di qualcuno? Scusi, non ho capito. Ma non lo so. Ma non ho la foto di nessuno. Ma casomai ho delle foto di repertorio. Cioè, ho dei busti, è diverso però. Ho dei busti, ma. Che busti, sarebbero? Tante persone: il busto di Stalin, il busto di Mao, il busto di Marchionne, il busto di Mussolini, il busto di. Non mi ricordo poi. Ce n'ho quattro. No, anche Berlusconi, sì, ho anche dei busti di Berlusconi, certo, due, tre. Addirittura busto, allora. Ma certo, ne ho 7-8, ne ho 7-8, ne ho 7-8. Sandro, comunque, che vuole? Vabbè. Volevo aggiungere un attimo. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera, cercavo Daniela Santanchè. Chi parla, scusi? Sono Giuseppe Cruciani. Prego? Giuseppe Cruciani. Ha sbagliato numero. Oh, ho sbagliato numero. Ma lei è sicuro? Certo che sono sicuro. No, perché avevo questo numero, Santanchè, sotto mano. Ma lei sta cercando la signora Garnero. Ah, la signora Garnero. Oh, mi scusi, sì, però Santanchè, ormai tutti la conoscono come Santanchè. Sì, ma qui è Santanchè, non è Garnero. È Santanchè. Ma c'è qualche parentela, mi scusi, Quante domande sta facendo? No, ma nel senso che mi hanno dato questo numero come certo, come numero sicuro, ha capito? No, gli hanno dato sbagliato. Me l'hanno dato sbagliato. E lei è certo al 100%, Vuole che glielo scriva? Non lo so, però secondo me io continuo a pensare che questo sia il numero. Non è che lei si vergogna del nome? Assolutamente, faccia il piacere, guarda. No, buonasera. Appunto. Grazie, arrivederci. Giuseppe da Latina. Sì, buonasera Valenzo. Buonasera Cruciani. Dica. Guardi, volevo solo fare una precisazione, un intervento in merito all'apertura della trasmissione questa sera, quando avete fatto ascoltare la dichiarazione della Barbara Berlusconi. Sì. In quanto voi avete sottoscritto. Ma non abbiamo sottoscritto, io non sottoscrivo nulla. Io ho detto che era una provocazione intelligente, siccome lo considero un delinquente, un criminale, allora però in realtà ci hanno fatto due governi insieme. Questo ho detto. Scusi, cioè, non ha detto una stupidaggine la signora Barbara Berlusconi, no, dovendo difendere mai il padre. Cioè, questo ho detto. Ma scusi, ma che lo dice lei va bene, però voi fate i giornalisti, no? Ma voi che c'entra, ma che c'entra che facciamo i giornalisti? Cosa c'entra? Allora, perché non posso dire che ha ragione o ha torto qualcuno perché faccio giornalista. Allora io dico alla Barbara Berlusconi che lei dovrebbe sapere che l'Italia è un paese, il fatto di giustizia, per garantista. Hanno fatto i due governi insieme perché il signor Berlusconi non era ancora condannato con sentenza. Ma no, ma non è vero. Allora adesso è passato in giudicato ed è un delinquente acclarato. Ma ci sono ancora, però stanno ancora insieme. Vabbè, non ho capito. Però stanno ancora insieme al governo o no? Sì, d'accordo, però infatti non è caduto il governo, perché evidentemente... Senta, ma perché sta discutendo di questa cosa? No, francamente non lo capisco. Cioè... No, perché voi perché Parenzo, soprattutto Parenzo, ha sottoscritto una dichiarazione, cioè, voi, voglio dire... È una, ma scusi, ma io non ho... Ma pronto? No, anche lei, ma scusi... Ma io certo, ma non ho sottoscritto, ma può collegare per cortesia il cervello alle sinapsi? Ho detto semplicemente che la signora Barbara Berlusconi, detta Babi, ha detto delle cose verissime, cioè è vero che tecnicamente... Ma lei non deve dire che sono vere. Ma io posso dire quello che cazzo mi pare, come posso dire che lei dice una stronzata? Ma non è che se uno fa il giornalista non può dire quel che pensa, ma qui non c'è una notizia, qui c'è da... C'è il ma perché mi fa incazzare? Ma lei deve dire le cose come stanno, devi dire le cose come stanno. Cioè, ma lei, come stanno? Che cosa che questa ha detto una roba? Ma lei è pazzo, questa ha detto una cosa, abbiamo fatto un commento, ma devi dire le cose come stanno, cosa vuol dire? Portatelo via, no, basta! Perché voi, ma sì, vabbè, voi alla fine fate sempre così, però voi dovete ma dire così che... Come? Se lo dice lei va bene, se lo dice la Berlusconi va bene, perché lei è la figlia, ma voi però dovete precisare, voi siete lì per precisare. Ma precisare che cosa? Ma precisare che gli è data a parte che la parola... Precisare che c'è una segatura dentro quel cervello, questo bisogna precisare, che lei ha della segatura al posto del cervello. No, va bene, tanto con voi avete sempre ragione voi. Vabbè, Andrea dalla provincia di Salerno, dai, Andrea provincia di Salerno. Andrea, pronto, vai, Andrea. Salve, buonasera. No, volevo fare un intervento sull'invio dei 200 nuovi militari lì alla TAV. Lei, Cruciani, l'ha detto con un tono un po' sarcastico. No, è che sarcastico? Alla grandissima ho detto, alla grande. Detto, cioè, ma che sarcastico? Contento, ma sono contentissimo, non contento, contentissimo. Vabbè, allora volevo avere questa conferma, anche io sono contentissimo, ma allora? Per commentare il discorso del buon Travaglio, il quale dice anche io andrei a sabotare il cantiere. In Italia il buon Travaglio deve capire che quando qualcosa viene approvata per legge dello Stato, la legge va osservata, parlano tanto di far osservare legge. Vabbè, ma siamo d'accordo su questo, Andrea, su, cioè più militari, qualcuno dice 5 Stelle dicono una provocazione, non so che cosa, i militari, ma come una provocazione? Oggi le nuove brigate... No, è una necessità per portare avanti un'opera che l'Italia vuole. Ma loro non so se la vuole l'Italia, l'opera che l'Italia vuole, non esageriamo con le parole. Oggi le nuove brigate rosse hanno detto... Le nuove brigate rosse hanno detto che quelli dei Notava dovrebbero fare un passo in più, dovrebbero fare un passo avanti, capito? Enrico da Monza, buonasera, poi uno non deve mandare i militari là, non 200, 1000 militari, rosse. Ma sono dei quattro rincoglioniti in galera, non so. Le nuove brigate rosse. Una cosa pazzesca. In collegamento, aspetta, Enrico da Monza prima Enrico da Monza, poi un grande collegamento. Parto, posso? Sì, vado. Buonasera dottore, grazie di avermi richiamato. Allora, io prima sentivo il suo colloquio con padre Amort sul discorso coppie gay, omofobia, eccetera, e avverto sempre una grossa, diciamo, ironia, sarcasmo da parte sua, verso chi si oppone, diciamo, no? Io non ho detto che mi ho sarcasmo. No, no. Per carità, è legittimo, però mi sembra una questione così difficile, per cui le posizioni sono tutte rispettabili, no? Adesso io le volevo porre una domanda, ma voi siete così sicuri che sia veramente una scelta di libertà? Quale? Quella di equiparare, arrivare un giorno a equiparare una coppia etero e le coppie omo? Cioè, ma io non lo so, ma io sono d'accordo, punto, ma non è che penso che chi non è d'accordo è un criminale, attenzione, cioè ci deve essere anche la libertà di espressione di pensiero, cioè deve essere garantito, perché altrimenti diventa una follia, deve essere garantito nella propria libertà di espressione di pensiero chi pensa invece che non ci vuole il matrimonio omosessuale, che non ci vogliono le adozioni, e anche chi insulta, secondo me, anche chi insulta deve essere garantito. Ovviamente poi ci sono le leggi penali che riguardano la diffamazione, eccetera, eccetera, ma se io insulto una persona o che non è omosessuale e quella mi denuncia per diffamazione, non capisco perché magari io devo pagare una certa pena, invece se io insulto un omosessuale devo pagare di più. Questo francamente non si capisce. Io avevo un grande stabile. E abbiamo con noi in collegamento dalla Maremma Selma Dell'Oglio. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Come andiamo? Che meraviglia. Molto bene, grazie. Senta, sentito, ancora non ho detto moglie di Giuliano Ferrara, Ancora. Quello lo metteranno sulla mia tomba. Ma dove sta Giuliano? In cucina. In cucina, non vuole venire con noi alla radio perché in questo momento mi sa che non conviene molto venire con noi alla radio. L'ho chiamato l'altro giorno, E che succede? Cosa sta cucinando Giulianone? Come? Che sta cucinando Giuliano? Giuliano? Non lo so, sarà una sorpresa. Se potete alzare un po' l'ascolto mi fareste una cortesia. Ma certo che alziamo. Lo chiediamo subito alle maestranze di Milano. Maestranze di Milano, alzare l'ascolto alla signora Selma. Senta, in questa disfida tra Boldrini, presidente della Camera, e il signor Grillo, lei con chi sta? Oggi la Boldrini ha detto una cosa assurda, tra l'altro. Che cosa ha detto? Con i talebani pensavo di aver visto di tutto. Pensavo di aver visto l'estremismo fondamentalista in Afghanistan al tempo dei talebani. Evidentemente non aveva ancora visto tutto. Cioè, su Beppe Grillo e le istituzioni. Ma dai, su. Vabbè, se esagera Grillo, perché non può esagerare Boldrini? Ma sì, d'accordo, però ragione, su. No, ma non ha ragione su questo, non ha ragione. Ha perché ragione, non Selma, ha. Su questo è vero. Sì, ma vi offendete per questo? No. Vi scandalizzate per questo? E non ma vi scandalizzate per tutte le cavolate che dicono questi grillini? Ma sì, diranno pure delle cavolate, perché secondo lei dicono molte cavolate questi grillini, sì, a volte. Ma io ho smesso di ascoltarli perché proprio non mi sembra proprio interessante. Ah, proprio, anche Grillo lei ha smesso di ascoltare? No, aspetto che passino, come la stagione delle mosche. Come la stagione delle mosche? No, c'è la stagione in campagna dove siamo pieni di mosche. Uno aspetta che passi perché è noioso. Ma secondo lei passa? Bah. Ma io penso proprio di sì. Ma sì, ma le mosche ogni tanto qualcuno le schiaccia però. No, non c'è bisogno di schiacciarle però le mosche, no? No, no. Beh, a me danno fastidio. Ci sono dei meravigliosi ormoni che si mettono e loro fuggono. Sì. Possiamo provare così quei grillini. Lo so, però mi sa che alla Camera è piuttosto in politica è complicato. Quali potrebbero essere gli anticorpi per i grillini? Si parla per iperbole. No, appunto, dico, alla Camera cosa si può mettere invece? Cioè, in politica, qual è gli scaccia grillini? Chi potrebbe essere? Bah. Basta una scaccia mosca, secondo me, così lo fa. Ma sì, senta, ma è vero che dietro il video di Berlusconi c'è suo marito Giuliano Ferrara? Sì o no? No, assolutamente no, ma, no, questo è escluso. Ma come no? Ma si sa l'è che escluso. È escluso adesso. Non lo so, cioè non sono informato dei fatti, ma appunto penso che avrei sentito qualcosa, no? Che ne so, magari ci ha parlato poco in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Non lo so, perché non lo so. Lui. Ma no, ma non ce lo vuole dire, non vuole venire al telefono con noi. Ma come l'ha vista, signora Selma? Questa famiglia, ognuno parla per sé. Appunto. Questo dico. Ritorno di Forza Italia, come l'ha visto, signora Selma, lei? Ma insomma mi va benissimo, non so, un po' di muffa, un po' ammuffito in generale, mi va benissimo, tanto che differenza fa, cioè va benissimo, tanto che gli frega a lei. Deve andare, se ci sono i grillini ci può essere anche il ritorno di Forza Italia, cioè certo che siamo a ridicolo lo stesso, dice lei, cioè ridicolo per ridicolo. Ma non so, questo non è di questo che mi scandalizzo. No, non bisogna. Di che si scandalizza lei in questo periodo, per esempio? Di niente. Ma da sempre dalla magistratura, questo sicuramente. Ah, la magistratura, spero sì. Spero di non cadergli mai sotto. Mai, Mai. Mai, mai. Ma proprio lei ha un terrore proprio anche fisico dalla magistratura? Non è un terrore fisico, però sono consapevole che ti possono fare molto male. Molto male, Come maneggiare dei coltelli, uno sta attento. Addirittura? Beh, ah no, come addirittura? Luciani, fai il bambino? No, ma ieri. Ma se uno è colpevole, scusa. Cioè Berlusconi proprio secondo lei l'hanno preso proprio sentire. No, ma Parenzo è la giustizia che deve essere giusta. Parenzo innocente, una cosa, bisogna vedere chi ti perseguita, se ti perseguita per giuste ragioni o per ragioni sbagliate. Per esempio Berlusconi secondo lei è un iper perseguitato? Davanti agli occhi di tutti non lo devo certo difendere io. No, il popolo italiano ha capito benissimo, se sono faziosi lo odiano, gli sta bene. Se no, anche se non lo amano, però vedono quello che succede, non è che ma tre gradi di giudizio ci sono stati, spiegare al popolo italiano che succede, lo sanno tutti, si vede tutto, è tutto chiaro. Questo devo dire che è uno dei grandi vantaggi della Seconda Repubblica. Cioè? Si capisce tutto. La Prima Repubblica io mi addormentavo sempre sui divani perché non capivo niente, era tutta una cosa da oscura. I democristiani, i socialisti, i comunisti, eccetera. Mi addormentavo perché non riuscivo a seguire. Appena è arrivato Berlusconi capivo tutto, si capisce, si sa quello che succede. Questa è la grande rivoluzione che ha portato. E dunque si sa, si sa che c'è, però uno come si spiega tre gradi di giudizio, la casa, cioè come se le spiega, si spiega cosa? Con la persecuzione, con la persecuzione, sono vent'anni, vent'anni adesso, vent'anni che uno dai e dai a qualcuno, se, a chiunque si trova qualche cosa, il maggior contribuente italiano condannato per evasione fiscale, è una cosa da ridere, è una comica. Ma sto Esposito? Come? Questo Esposito come lo vede lei? Come l'ha visto? Non ho, scusa, non ho capito cosa. Esposito, sai Esposito, il giudice. Ah, beh, vabbè, ecco, appunto, giusto appunto, come, come bisogna dire? In America manco sai come si chiamano i giudici, si vedono solo tra di loro, non si sa, non emettono giudizi in pubblico, non parlano con i giornali. Ma lei l'ha capito quel dialetto là quando parlava, no? Qualcosa. Ma io, no, adesso non prendiamo in giro le pronunce, è un po' come scoprire i nomi. No? Quel Cruciani magnifico che fa la zanzara su Radio, Radio 24, uno che se ne strafote, dica. In collegamento dalla Maremma, Selma Dell'Olio, moglie di Giuliano Ferrara, con David Parenzi, in collegamento da Roma. Cara Selma, no, ma... No, dalla Toscana anch'io. Ma dalla, che cavolo, ma che fai pure te in Toscana? Cosa fai? Sono andato a prendere... Sono andato da mia figlia. Non si può andare da mia figlia. Sì, sì, no, assolutamente. Non c'è una direttiva sindacale che non posso andare da mia figlia. Ma non ho capito, figlia, ma che hai il torpedone? Sei in torpe? No, no, sono già uscito dal torpedone con mia figlia, tra un po' vado a cena, vado... Addirittura già preso il torpedone? Sì, sì, beh, per forza non si può più fare i collegamenti, tanto ti avevo promesso che sarei arrivato prima, è tutto tranquillo, adesso vado tra poco a mangiare alle Logge, al borgo di Stigliano, sì. E credo che mangerò dei crostini e penso che poi, cosa mangiamo? Sì, Margherita, e poi mangeremo forse una fiorentina, no? Una bella fiorentina la mangiamo, Marghe? Alla facciaccia di Berlusconi. Ma che c'entra Berlusconi? No, sto educando mia figlia ad alcuni valori sani. Amore, com'è Berlusconi? Com'è? Sta parlando con me? Ma non si può fare, non si può dire, non si può fare le domande ai bambini. Volevo dire una cosa, Cruciani. Dimmi, come l'epoca di Polpolo. Voglio suggerire, perché se non sembra, quando parlavamo della magistratura e della situazione giudiziaria in Italia, se può sembrare la mia una difesa un po' sciocca di Berlusconi, io invece voglio consigliarvi un libro e un uomo, un ospite. Un ospite, sì. È l'autore di un libro, si chiama Guido Vitiello, che scrive benissimo, pensa ancora meglio. Ha scritto un libro che si chiama In nome della legge ed è sulla rappresentazione del sistema giudiziario nel cinema italiano. Vabbè, vedremo, adesso noi non siamo proprio... È meraviglioso, perché quello che, quando io ho detto mi spavento, voglio dirle soltanto una cosa, per essere più chiara. Sì. In Italia, a differenza di paesi con una democrazia matura, non borbonica, non di eredità borbonica, esiste in Italia qualcosa che si chiama il libero convincimento del giudice, da accapponare la pelle, cioè non la prova oltre ogni ragionevole dubbio, c'è il libero convincimento però del giudice. A lei, porto un esempio. A lei per esempio la Boccassini fa paura come giudice? No, non mi fa paura, non mi fa paura. Chi è che le fa paura? Signor De... mi faccia paura tutto il sistema italiano. Io non ce l'ho con una persona, ce l'ho con un sistema che non funziona. Ma secondo lei lo vogliono proprio, Berlusconi lo vogliono proprio ammazzare i giudici, secondo lei? Scusate. Lo vogliono morto? Voi conoscete un italiano, uno qualsiasi, preso a caso, inclusi voi stessi, che se per vent'anni vi perseguitano e cercano di trovarvi, beccarvi in castagna con qualcosa, non la trovano? Ma voglio dire, ma lo vogliono morto, ma secondo lei, sì o no? Questo voglio vorrei capire da lei. Sì, allora. Sicuramente politicamente e possibilmente anche fisicamente. Fisicamente morto? Sì, dai, beh, su. Ma sarebbero più felici perché sai, a volte ritornano. Ma tu dici se proprio vai nella tomba non può più tornare, ma io non ce li vedo però. Lo temono, non sono riusciti a sconfiggerlo dalle urne. Però scusi un attimo, signora Dell'Olio, però io non me li immagino, no, Parenzo, magistrati che stanno lì intorno. Scusami, sto perdendo perché... No, ti sento bene io. Io no però, perché c'è la linea qui che... Adesso come mi senti? Bene? Vado avanti. Passiamo ad altro. Selma, scusa un attimo, ma io voglio capire, Putin ha detto che Berlusconi, se era gay, non veniva perseguitato. È vero. No. Chi tocca gay muore in tutto il mondo ormai. Cioè, ha ragione Putin. Cioè, se oggi... Sì, è vero. Chi tocca i fili muore. Quindi, sono gli intoccabili del nostro paese, nel senso che non si possono criticare, non si deve dire niente, che sono meravigliosi, favolosi, che dobbiamo mettere tutto a loro vantaggio, eliminare genitore, cioè mamma, papà, cioè, dobbiamo fare tutto per loro. E se dici di no, sei omofobo. Questo è anche vero, c'è no, un'esagerazione. No, è un'esagerazione, sto è dicendo. Una stupidità. No, ma certo, sono, che è una stupidità. Ci sono fior di omosessuali che la pensano come, come pensano tanti, che non è neanche giusto sta cosa. Dunque Putin, quando dice che se Berlusconi... Da Rupert Everett ha una quantità infinita di omosessuali che non condividono questa corsa alla casetta con moglie e marito, marito e marito, moglie e moglie, con, in cucina con i bambini per mano. Non sono tutti d'accordo. Però, scusate, dunque tu sei anche contrario a questo reato di omofobia. Io lo trovo una follia questa roba qui. Cioè, sarà pure una follia? Sarà pure una no, il reato. Ma facciamo la legge che nessuno li può più criticare? Appunto, dico, appunto, questo. Questo vogliamo fare, togliere anche la libertà di parola. Io ci tengo alla libertà di parola. Appunto, dico. Sono parole che a me non piacciono, però poi un domani voglio esprimermi io. Cioè, come sarebbe questa cosa? È orribile, è stupido. Cioè, tu devi avere il diritto anche di insultare gli omosessuali. No, è tutto. Ci vuole la libertà di... Ma non mi sembra di parlare con dei bambini, non no, so, però siccome esistono, ma vuol dire che anche se lei deve potersi esprimere, anche se io non condivido una sola parola che dice. No, ma io sono d'accordo con te. No, ho capito, ma se uno gli dice frocio di merda, ma scusa, prima di dire un calcio nel Mercedes. Mi è sempre divertito quello frocio di legge, a me mi ha sempre divertito, frocio di legge. Meraviglioso. Ma sì, ma ho capito. Ma anche se uno dice, che dobbiamo fare? Mettiamo in galera quelli che dicono brutti froci? Oppure troie alle donne, quanti insulti ho avuto nella mia vita, da, ha ragione Selma, dai, allora a quel punto siccome abbiamo equiparato la categoria degli omosessuali, che ne so, a quelli discriminati dalla legge Mancino, gli ebrei, eccetera, eccetera. Beh, ho capito, allora esageriamo, ragazzi. Dai, su, dai. Ma scusami, a me se qualcuno mi dice ebreo di merda, io prima gli tiro un calcio nel sedere e dopodiché lo denuncio ex legge Mancino, scusa, non capisco. Ma che denunci? Sono ebrei anch'io, non facciamo adesso la sviolinata sugli ebrei, per favore. Ma è così, se te lo dicono, lo so. Gli ebrei hanno passato, va bene? Sono stati perseguitati anche degli omosessuali. Appunto. Ma ho capito, però, ma questo non significa... Non parliamo cose che non stanno... Se uno li vuole ammazzare, ci sono già tutti... Selma dovrebbe saperlo questo. Vuole ammazzare? Chi è che no, ammazza? Ma dico, se qualcuno li vuole... Ammazzano le molte più donne, se per questo. Eppure io non voglio una legge che dica non si può dire troia a una donna. Ma certo. Ammazzano molte più donne di omosessuali, lo metterai. Certo, certo. Allora, che vogliamo fare qua? Dai, non si può più dire a una donna sei una troia? Vai in galera? Ma dai, ha ragione Selma, dai, Parenzo, ha ragione. Anche io ti tiro un calcio nelle palle, però che vuol dire? Ha ragione Selma, dai, su. Ma su, ma è l'ABC della democrazia, l'ABC, stiamo parlando proprio delle cose elementari. Però in molti paesi esistono delle leggi che se tu insulti un omosessuale puoi essere punito. Sono liberticide. Se tu poi prendi a pugno un omosessuale, beh, sei punito. Non deve prendere nessuno. No, però se è violento va in galera comunque. Però c'è no? Un aggravante, molti dicono, ci vuole un aggravante. Ah no, l'aggravante non mi piace, questo non mi piace. L'aggravante no. E c'è la come io detesto la parola femminicidio. Ci sono gli omicidi, i femminicidi. Sì, è orrenda, una cosa. Va in galera, punto. Non è così che si risolve, inasprendo le pene, facendo sempre nuove leggi che poi nessuno rispetta. Ma c'ha ragione lei, dai, su, Parenzo, c'ha ragione lei. Perché non vuoi ammettere questa cosa qua, che c'ha ragione Selma, quando dice così? No, io guarda, io stimo e voglio bene a Selma come a una zia, praticamente. Addirittura, non esagerare. Sì, dai. Come a una zia, americana, bellissima, ebrea come me, quindi le voglio veramente bene. Ma qui sta dicendo una stronzata. Come si fa? Ma le voglio, lo dico con affetto, come si dice agli zii alle volte. Dico, zia, stai sbagliando, perché qui la discriminazione di genere, cioè rivolta verso chi è diverso, è odiosa, terribile, infamante. E merita cosa? Un aggravio della pena. Cosa è peggio? Dai, su. No, dai. Ma da Parenzo, io ti sculaccio come un nipotino, però, perché sembra proprio che non capisci proprio che cosa sia la democrazia. Senti, ho capito, Selma, quando so, Putin, quando Putin Voltaire, dice so quando Putin quando qua. Putin dice che Berlusconi viene punito perché va con le donne. Gli omosessuali, Putin. Che citi Putin? Va punito comunque, quindi bisogna trovare qualcosa. No, d'accordo, cosa. Però Putin dice se fosse stato gay, diciamo, non sarebbe... Ah, sarebbe un intoccabile, sicuro. Un intoccabile. Sicuro. Ma Putin è odioso, perché un paramento di fuoco, proprio, contrario. Beh, però in Russia bisogna dire che fanno le leggi contro la propaganda omosessuale, una cosa orribile. Io questa. Non sono russa. No, per dire, beh, tu approvi queste leggi? Veramente lo sono, per mia madre. No, approvi queste leggi? Io non mi occupo delle cose che leggo sui giornali, perché ci scrivo sui giornali e so quanto travisano le cose. Vabbè, okay, però andare lì, informarmi dei fatti. Ma ste leggi esistono però contro la propaganda omosessuale in Russia, non è che non esistono. Beh, certo. Perché bisogna fare propaganda? È che cretino farci una legge, sono contraria a questo. Ah, ecco, appunto. Sono contraria, però voglio dire, non è che dice bisogna ammazzarli. Ah, ho capito, ma tu dici perché bisogna fare propaganda? Ognuno fa propaganda per quello che vuole, io posso pure fare proselitismo omosessuale, qual è il problema? Non mi pare un reato fare proselitismo omosessuale, ma no? Ma piglia da quei russi però, siamo in Italia, qui non è il reato. Vabbè, comunque, parliamo, dai. Parliamo dell'Italia, è più interessante. Sì, certo. Vabbè, comunque, Selma, hai sentito quello che scrive il Fatto Quotidiano su Amato? Tu leggi il Fatto Quotidiano? No, leggo solo Malcolm Pagani, che è un meraviglioso critico di cinema. Sì, lo so, è molto bravo. Bellissimo, lo adoro, pure bellissimo. Ho capito, ma hai visto che scrivono su Amato, no? Su Giuliano Amato? No, non l'ho letto, però ho sentito, insomma, capisco più o meno, lo odiano, no, lo vogliono morto. Pure non lui? Deve avere prebende, non deve avere ruoli. Vabbè, no? Non è sbagliata come cosa, però uno a un certo punto si dovrebbe pure mettere l'anima in pace. Non basta. È che, cioè, basta, no? Pure non so quante migliaia di euro di pensione, in più giudice della Corte Costituzionale. Ha fatto qualche cosa, voi? Ma no, vabbè, ma uno a un certo punto dice basta, no? Ma non è mio amico, però non capisco un accanimento. Ma non c'è un accanimento, ma chi è? Ma ti pare una vittima Giuliano Amato? Dai, su! Beh, lo state facendo. Alla propaganda contro Giuliano Amato si può fare, questo si può fare. Come siete proprio due. Senti, un'ultima cosa, ma io voglio dire una cosa, ma lo stilista Cavalli, il signor Cavalli, sai che cosa ha detto? Ha detto che lui quando vede passare una Ferrari, a parte che si è scoperto che forse una Ferrari ce l'ha pure lui, ma lasciamo perdere. Sicuramente. Quando vede passare una Ferrari, prende la targa e la manda al fisco per i controlli. Senti, ma ognuno si diverte come meglio può. Si vede che si annoia, il signor Cavalli. Non sa che fare col suo tempo, pensa un po'. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Io l'ho dato Gesù Cristo. Mia da Palermo, buonasera. Mia. Ora riprendiamo. Bruno da Roma. Buonasera, signor Cruciani. Dica. Mi fa piacere ritornare in trasmissione dopo 6 o 7 anni. Non me lo ricordo, francamente. Beh, certo, lei non può ricordare. Io posso ricordarmi che litigai con lei e spero di non farlo stasera. Vabbè, allora? Senta, io volevo intervenire su una frase che l'aveva detta all'inizio sulla signorina Barbara Berlusconi, che chiedeva come mai si governasse con quel nemico del padre da parte del PD, eccetera. Ma questo, credo che il ragionamento della signorina Berlusconi sia semplicemente un sofisma, un ragionamento sofistico, cioè nel senso che noi siamo obbligati a governare con la forza politica che è stata creata dal padre, ma questo non presuppone che si debba avere una stima per cotanto genitore che sia positiva. Però quello che se tu ci governi insieme, se tu ci governi insieme, diciamo, non lo puoi, però se governi insieme a un partito che ha a capo uno che tu consideri un delinquente, eccetera eccetera. Sì. Cioè, la logica dovrebbe portare a dire vabbè, adesso ci separiamo. Poi dopodiché c'è la realpolitik, eccetera. In Italia c'è anche la realpolitik, purtroppo, se uno pensa di poter anche lavorare per il cosiddetto bene comune. Vabbè, Bruno, poi allora andiamo avanti, poi. No, la cosa che mi indigna è sentire una persona, moglie di cotanto maître à penser del centrodestra, cioè Giuliano Ferrara, che crede che il signor Berlusconi sia un povero perseguitato dalla giustizia. Vabbè, ma non è l'unica, non è l'unica. In testa, non credo che si possa definire tale. Uno che è stato condannato 2 anni prima. Va bene, abbiamo capito, si sente poco, il telefono va e viene. Abbiamo Mia da Palermo. Mia. Mia Ceran. Ciao Peppino. Ciao Mia, che succede? Chi sei? Sono la tua ammiratrice, sono un tuo ammiratrice, io sono un uomo che ogni tanto fa delle marchette. Non ho capito, scusa. E a proposito, professore, professore, non ho capito bene, lei è un uomo che ogni tanto fa delle marchette, che vuol dire? Sì, che la crisi mi ha portato ad arrabbiarmi. Cioè? E faccio delle marchette con degli uomini, ogni tanto mi fotto un uomo. Lei, a proposito di questo, no, volevo farti un cadeau. No, scusami, professore, maestro. No, scusami, non ho capito bene una cosa. Innanzitutto, lei è mia o mio? Lei è mia o mio? Non ho capito. No, io sono un uomo, in arte mia. In arte mia, cioè un transessuale in sostanza. No, sono un uomo. Un uomo, in arte mia. Non ho capito niente. No, non ho capito, scusa, sì, non sono un uomo. Transessuale, niente. Un uomo che ogni tanto si fotte uomini. ogni tanto si fotte uomini. Bene, dunque, cosa ci vuole comunicare a parte questa cosa divertente e molto simpatica? Questa comunicazione, signora Mia, anzi in arte Mia, non so come sia il suo vero nome, se lo vuole dire ci fa un piacere. Che ogni tanto non è importante, come questo signore in arte Mia ogni tanto si fotte uomini e fa le marchette. Bene, Parenzo, sei contento di questa comunicazione? No, ti sto dicendo che è una storia drammatica, è una persona da aiutare. Perché? Ma poverino, ma perché, voglio dire, una persona che è bisognosa di soldi, che dice che per arrotondare è costretto a fare, è una persona che va aiutata, poverino, non è una storia da ridere, è drammatica. No, che sta ridendo? Mia, allora, ma non mi pare che sia in... ma sei un coglione, dai. Comunque. Sì, ma infatti non, allora, va, non va, mi sembra... cosa stavo pensando, Peppino? Cosa stai ti pensando? Ti mettere delle calze autoreggenti. Sì. Metterti tra i busti di casa tua. Sì. In platea far accomodare padre Amort e il buon David. Sì. E spaccarti il culo. Sì, ma scusa, abbi pazienza. Ma chi è questo matto? Con quali mezzi, scusa? Ma è un coglione. Scusa, con tutti i mezzi miei. No, però scusa. È tutto gratis, cioè sì. Non ti faccio pagare. No, ma questo adesso francamente, con tutto il fatto che uno può avere le perversioni più grandi del mondo, adesso francamente, cara mia, non è francamente la mia aspirazione principale, no, ecco, quello di essere messo nel salone di casa mia con i busti intorno e col padre Amort accanto e venire sodomizzato da lei. Adesso francamente potrei avere tante perversioni nella vita, tante, ma questa non ci sono ancora arrivato, Parenzo. Sì, lo so, vabbè, sì, certo. Gesù Cristo, d'accordo, però Parenzo, voglio capire questo, signor mia, lei che ascolta Radio 24, no? E ci ha donato questa telefonata, perché non chiama anche la trasmissione del forum? È partita l'ambulanza, Parenzo. No, non è partita, no, non è partita. Voglio capire perché. Io l'ho mandato da te. No, ma rispondi a questa domanda. Voglio capire perché lei che ci ha donato questo contributo importante alla trasmissione di informazione. Un contributo soprattutto al dibattito. No, ma un dibattito no, te lo dà pure a te, ha detto. Ha detto un dibattito. Al dibattito. Grazie, signor mio. Aspetta, ha dato un contributo essenziale al dibattito, sì, sull'aumento o meno dell'IVA. Questo bisogna, esatto, dirlo, eh. Questo bisogna, esatto, aggiungerlo. Allora? Voglio capire perché non è mai venuto in mente in questi giorni di dare anche il suo contributo alla trasmissione Focus Economia. Cioè, perché chiama solo noi e non chiama anche altre? Ma io sono un affezionato. Beh, appunto, no, Parenzo vuole sapere perché non è affezionato alla trasmissione precedente, chiamasi Forum Economia. Ma perché il culo di Cruciani non è lo stesso di altri conduttori? Beh, questo è una risposta. Ma immagini che non ti porto il culo. Guarda che c'è un motivo, se ad esempio chiamano qua e non da Salvatore Carruba, ad esempio, c'è un motivo, no? Sì, beh, certo, questo non c'è più. Mia, che stavi dicendo, scusa? C'è un motivo, se senza esagerare, dico, senza esagerare, cosa stavi dicendo? Mantenendo certo sempre un certo, come dire, un certo tono. Certo. Cosa stavi dicendo? Ti immagini la faccia di padre Amort e Parenzo mentre, diciamo, consumiamo l'amplezzo. Sì, no, dillo pure, senza problemi. Sì, ma c'è un piccolo particolare che io non desidero. Sì, l'ho dato Gesù Cristo, sempre. Giro la testa e fuori vedo la neve. Il mio tempo è come una giornata breve. Le emozioni e aspirazioni davanti al caminetto mi fa pensare a quello che finora non ho detto. È il freddo, prende le tue mani e le tue labbra. Hai solo voglia di riempire quella carta. E la tua stanza è sempre fredda la domenica, come quando alzi le tapparelle fuori nevica. Le coppie innamorate a passeggiare per il centro, nonostante non ci sia sole ma solo vento. Nonostante il loro modo di parlare lento, me ne sto continuamente a scrivere sotto il mio tetto. E non mi fermo anche se... Beh, non ci poteva essere ingresso migliore, caro Parenzo, con questa canzone rap. Bella, tu ti chiederai di chi è questa canzone, che si chiama Riflessioni, di chi è questa canzone che si chiama Riflessioni, di un ragazzo molto giovane, perché la Zanzara è anche giovane, si è aperta a mondi sconosciuti, a mondi che prima non c'erano, a mondi che prima erano totalmente fuori dalla sua, no, dal suo orizzonte. Radar. Si dimostra una persona autentica, poche mani su cui conto, chi mi vuole bene senza tornaconto, me lo leggi in volto chi sono, niente amici, niente. Ci siamo talmente aperti a questo mondo, mi fermano ogni tanto per strada dei ragazzi di 18, 20, 25 anni, 25 anni che dicono sei forte, picchia duro. E che noi i ragazzi li invitiamo pure quando sono bravi. Questo rap è di Alessandro Travaglio in arte Trava. Buonasera. Buonasera a voi, ciao a tutti. Come stai? Come stai? Io sto bene, grazie, voi? Non c'è male, combattiamo come ogni sera. Allora, innanzutto questo brano che si chiama Riflessioni fa parte di un album che esce tra poco, giusto? No, questo brano che avete appena mandato fa parte del mio vecchio EP che è uscito qualche mese fa, era un brano con Raiden e One Mic che ho avuto. Ma hanno detto una cazzata subito, no. Subito una minchiata mi hanno detto. Succede, vabbè, non c'è problema. Vabbè, era un vecchio, sta uscendo un altro di album, no? Sì, sta uscendo un nuovo disco che si chiama Fuori Classe. Fuori Classe. Esatto. Ma non ti senti un po' raccomandato oppure fai tutte queste cose perché sei bravo? Diccelo subito, noi siamo diretti, come diretto un rapper. Ti senti più raccomandato o più bravo? Dimmela sinceramente. Non c'entra niente. Non mi sento raccomandato perché. Cioè, tuo padre non c'entra niente. Facendo. Tuo padre non c'entra niente. Nulla. Totalmente esterno alla cosa, anzi, mi spinge come fan, diciamo. Io faccio quello che posso fare con i miei mezzi, fortunatamente. Però, per esempio, con il signor Fabi Fibra qualche legame c'è, no? Questo triangolo esiste o no? C'è un legame di amicizia tra lui e mio padre, tra me e lui. Io mi sono fortunatamente ritrovato ad aprire un suo concerto grazie a lui che era contento di avermi come ospite in apertura. Ma io penso che il giovane Travaglio ha talento indipendente, potrebbe chiamarsi anche Bubù, potrebbe chiamarsi anche Sallusti ad esempio, no, se si chiamasse Sallusti forse sarebbe diverso, però insomma il giovane Travaglio lo giudica il pubblico, la gente che ascolta dice è bravo. Ma è certo, ci vuole, bisogna vendere i libri, sì, i libri, quindi, questo caso bisogna vendere i dischi. Bisogna avere gruppi, ho visto su Facebook che è pieno di amici e molto conosciuti. Beh, un po', però diciamo la verità, sono Alessandro Travaglio, il nome aiuta, dai, un pochetto, poco, quanto aiuta il nome? Ma come aiuta? Ma il nome secondo me non è la cosa principale, nel senso io mi sono chiamato così per abbreviazione del mio cognome perché non volevo appunto nascondermi dietro di nessuna cosa eccetera, sennò potevo usare un nome diverso e crearmi un personaggio diverso, credo che questo non influenzi la gente che mi segue e che piace ascoltare la mia musica. Anche perché penso che magari tra la gente che ti segue non è che molti seguono, per esempio tu lo leggi il Fatto Quotidiano o no? Sì, a volte sì, lo leggo. A volte poco, diciamo. Dimmi la verità. Il giornale, ad esempio? No, non lo leggo mai. Mai, Libero nemmeno? No, dipende. Ma tra i giornali, diciamo, di destra, qual è quello che ti piace di più? Io, per esempio, lo sai, i primi due giornali che leggo la mattina sono uno Il Fatto e l'altro Il Libero. Tutte e due insieme. Io sinceramente non mi interesso alle cose di giornali perché non voglio interessarmene attualmente. Mi piace di più dedicarmi alle cose. Ma giornalista non lo vuoi fare? No. No, non mi interessa. Non ti interessa. Sto cercando di seguire questa strada qui e spero di riuscirci. Ma dunque Il Fatto lo leggi poco, io sono non è lo leggi tantissimo, non te ne frega niente, noiosissimo, no? Una cosa si parla. No, noioso no, però nel senso non metto in primo posto in classifica nessun giornale, nel senso che proprio non li leggo perché non mi interessa leggerli. Mi appalla leggere proprio tutti i giornali. È una palla tremenda. Ascolto la musica tutto il giorno. Appunto. Parenza, hai capito? Uno no, fa... dico che veramente è lui è. Mia figlia fra qualche anno mi dirà la stessa cosa. Io no, la radio, io, ma che me frega la radio a me? Cioè... Indipendentemente dal fatto che è il figlio del grande Marco Travaglio, lui è Travaglio, è il rapper, è un giovane rapper. Va valutato per il suo talento, cioè non penso che i suoi concerti ma l'hai già detto no, questo ma va ribadito, non penso che i suoi concerti vada in groia, ad esempio in groia non è che vai ai concerti del figlio di Travaglio perché è figlio di Travaglio, in groia andrà a teatro, non va ai concerti del questo è ovvio, no? Ma per esempio lei per lei Berlusconi cos'è? Preferisco non rispondere perché proprio non a 18 anni uno non è che fa il diplomatico a 18 anni. Non credo di essere ancora, o forse sì, ma magari mi sbaglio, essere ancora all'età di entrare nel campo della politica, affrontare queste cose qua. A me non mi interessa e non mi piace. Ma però, però uno a 18 anni, fra poco lei voterà per la prima volta, no? Già votato. Se non ha già, che ha votato, si può sapere? Sì. No, non si può sapere. Non si può sapere. Ah, lei no. Già è diventato a 18 anni, però lei è già molto diplomatico, molto diplomatico, perché pensa che poi uno strumentalizza queste cose, eccetera. Vabbè, ma non, cioè, non è che se uno fa figlio di Travaglio, poi uno può anche votare per Berlusconi. Non credo che lei abbia votato per Berlusconi, però, secondo me. Sinceramente l'ho già dimenticato che cosa ho votato, visto che cosa è diventato attualmente i fatti. Ma c'è una cosa che ammira di Berlusconi, lei sicuramente avrà un'idea su Berlusconi, adesso non me la vuole dire perché teme di dire qualche cosa di insomma un po' di scomposto, cioè qualche cosa che non va bene, ma c'è una cosa per esempio che ammira di Berlusconi? Una. Che ne so, la determinazione, la forza di volontà, il fatto che sta, cioè uno con la tigna sta ancora lì, il carisma, il modo di parlare, cioè da uomo di spettacolo, lei sta entrando nel mondo dello spettacolo, come un uomo di spettacolo non è male, come comunicazione, o no? No, sinceramente proprio non mi piace, non mi interessano le cose, io parlo tramite la mia musica, e chi ascolta i miei testi sa che cosa io voglio dire, quindi... Ma c'è un politico, che detesta di più? Beh, uno a 18 anni si interessa delle cose. Non so, ti giuro che non te lo so dire, sai perché? Perché? Proprio non guardo queste cose qua, non guardo programmi politici, eccetera. Mi piace guardare MTV, mi piace guardare le cose di musica, MTV Spirit, i miei amici che vanno a fare le battle di freestyle, eccetera. Ma io voglio divertirmi adesso, non voglio ancora entrare in queste cose qua. Manco Santoro ti piace, no? No, non mi interessa proprio niente. Ma per esempio andresti a fare un bel sabotaggio al cantiere della TAV, cioè andresti a staccare proprio con le cesoie e la rete? Quello invece è una cosa di la TAV, un argomento di cui parlano tutti. Una cosa ti interesserai oltre alla musica, no? Ci sarà una cosa? No, solo la musica. Solo la musica, la mattina sera. Studio, una cosa pazzesca. Vado a scuola e faccio la mia musica tutto il giorno, fortunatamente, perché comunque mi piace, è l'unica cosa che mi piace fare. Ma con suo padre che lavora così tanto, quanto tempo ha di vederlo lei? Poco? Il giusto, comunque, che tutti e due siamo molto impegnati, credo molto più lui che me, e lo rispetto molto per questo, quindi... Vabbè, Parenzo, ti piace come rapper? Ti piace come rapper il signor Alessandro Travaglio? Mi piace molto Alessandro Travaglio. A te il rap ti piace? Io non lo sento mai. Non capisco un cazzo, no, non conosco, sono ignorante in questo. Mi piace però lo spirito di questo ragazzo, perché è un giovane che giustamente parla la sua lingua e se ne fotte di tutto il No, ma secondo me non se ne fotte in realtà, è che poi sa come è fatto il mondo, Se ne fotte, ha le sue fidanzate, la sua musica, la sua scuola, la vita vera, Cruciani, non quella gabbia dove vivi tu come una scimmia, vedi il mondo, anch'io sono una piccola scimmia più piccola, più scimpanzé gigante, vedi questo mondo, lui è sei allo zoo. Capito? Sei dentro una gabbia, sradica la gabbia, apriamo al mondo, d'accordo. Questi giovani, raccontiamo storie. Lui è di Torino, si interesserà per esempio alla questione della TAV, no? Cioè, ma no, non gliene frega niente manco della TAV. No, non me ne frega niente, viaggio in macchina. Va bene, viva il rap, viva i giovani, viva ciao. Non siete seri per niente. Cari italiani, ma soprattutto care italiane, sono io il vostro Silvietto. Non me ne va bene proprio una. Incredibile, devo dare 494 milioni a quel gran pezzo di merda, meravigliosa persona che è De Benedetti. Ora, da voi italiani voglio sapere una cosa. Si potrà pagare col bancomat? De Benedetti accetterà i ticket del ristorante? Il baratto è legale? Potrei dargli cacà o in alternativa mandarlo a cacà. Ma come si fa? Questo è un Fiorello che imita Berlusconi. In questo caso non voglio dare ragione a Feltri, per carità, non c'entra nulla. Però devo dire che è un Fiorello un po' sottotono, Parenzo, per carità. Sempre numero uno, grandissimo, però non è forse una delle sue migliori esibizioni, no? Vabbè, voglio dire, anche Shakespeare, magari un sonetto. Adesso Shakespeare, non esagerare, dai, su. No, voglio dire, anche Shakespeare un sonetto l'avrà fatto. Sì, assolutamente, assolutamente. Ma non bisogna perdere la pazienza, bisogna usare la testa, usarla bene con i magistrati. Se ne incontro uno, gli parto di capoccia. E i miei che cosa fanno? Parlano. L'Alfano parla, lo Schifani parla. Adesso basta, tolgo il guinzaglio a Brunetta e alla pitonessa e li scateno. Bah. Feltri, Fiorello drogato. Al quale Fiorello ricordo che quando egli era drogato, drogatissimo, pieno di cocaina, la cocaina gli usciva anche dalle orecchie e rischiava di scomparire definitivamente dalla scena, nessuno di noi ha osato, per un sentimento buono che ciascuno di noi dovrebbe avere, abbiamo evitato di sfotterlo. Siamo stati zitti, non abbiamo parlato mai del suo vizietto terribile che lo aveva portato, diciamo, sull'orlo del baratro. Questo perché? Perché a noi non piace infierire su chi è in disgrazia. Fiorello invece l'ha fatto, nonostante avesse questo precedente. Però, caro Vittorio, non è che Fiorello ha infierito su una persona in disgrazia. Fiorello fa satira su Berlusconi, secondo me. Poi, per carità, va bene, io fatico sempre a dare torto a Vittorio, perché insomma, gli voglio bene. Però, dai, su, non... Va bene, hai fatto una polemica che ha avuto anche un riscontro, va benissimo, è ottimo. Però poi se uno va nel merito dice, vabbè, quello ha fatto una satira su Berlusconi, adesso non mi ricordo bene qual è il punto, cioè non mi pare che abbia fatto una satira particolarmente cattiva, non fa mai satira cattiva Fiorello, dai, su. Giovanni da Cremona, buonasera, anzi no, c'è ancora Mia, cara Mia. Oh, gioia. Allora, dimmi amore, gioia. Dimmi tesoro, però io non ci, io però non ci sto a questa cosa qua, te lo dico subito, io non ci sto. Ti hai messo da parte per fare parlare a quel travaglino. Hai ragione. A questo coglione di musica tutto il giorno. Aspetta, abbassa la radio, Mia, abbassa la radio. Scusa. Abbassa, se non si sente niente, scusami, dai. Allora? Gioia, ma ti... Tesoro, ti ho messo da parte per quel ragazzino che fa musica tutto il giorno. Ma guarda, e allora senti, io vengo a Milano i giorni dispari. Sì, i giorni dispari, che vuol dire? Come ci organizziamo? Ma noi come ci organizziamo? Cara mia, non bisogna organizzarsi in nessun modo, a parte che i giorni dispari cosa vuol dire? Ti porto le calze. Ma non ci sto a questa cosa qui, ma è una follia, non ci posso stare a questa roba qua, dai, su. Venga, atto che ormai è tutto finito. Sì, vabbè, appunto, è tutto finito, però fino a un certo punto, però, cara mia, dai, su. Ma no, ma facciamo accomodare Parenzo, gli diamo. Ma Parenzo non ci vuole venire. Ma non ci vuole venire. Lei è una persona. Mi chiamerà di fargli il culo pure a lui. Lei è uno sporcaccione. Sì, sì. Dimmi puttana. Sì. No, lei è uno sporcaccione, basta. Occhio che stiamo degenerando, ma siamo già oltre la degenerazione. Lei è uno proprio una persona sporca. No, fuori... non sono sporco, no, sono un porcellino, è diverso. Scusami, Parenzo, però è un se... malato, una persona che si deve far curare, uno sporcaccione. Ma perché? Che ha fatto? Scusa, non ho capito. Perché è una persona, perché è così, perché è uno sporcaccione, e chiudiamola qua. È uno sporcaccione. Ma perché? Che ha fatto? Ha detto una cosa e io gli ho detto di no. Ha fatto una proposta e io ho detto di no. È un maiale. Ma perché è un maiale? Non ho capito. Perché ha delle sue perversioni. Senza freni inibitori. Ma perché chiama la radio, tu dici, per questo? È fuori dal consesso civile. È uno sporcaccione. Vabbè, Mia, rispondi, va. Ormai è tutto degradato. Ormai. Beh sì, caro. Ha ragione. Sì, su questo ha ragione, professor Taormina. Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Ma ho capito, però sei a livello di Taormina tu, capito? No, ma su questo ha ragione il professor Taormina. Peppino. La fanno schifo. Mia, dimmi. Peppino. E allora, intanto hai la mia email privata. Ma no, ma non ce l'ho la tua email privata, abbi pazienza. Ma non ce l'ho la tua email. Secondo, ti volevo chiedere un'altra cosa. Dimmi, caro. Qual è usarti, tra virgolette, da ponte per l'onorevole Salvini? Onorevole Palmieri, chi è l'onorevole? Ah, quello di PDL. Salvini. Chi? L'onorevole Salvini. Ah, Salvini, ti piace pure Salvini, ti piace? No, no. Ce l'ho un po' sul culo. Perché? Per questa sua razzismo che ha nei confronti di parte del nostro paese. Ah, del sud. E lui gli farei il culo facendomi pagare la tariffa più alta, 2.000 euro. Ma lui non ci sta, però, questo è il punto. Vabbè, cara mia, è giunto il tempo di congedarci. Grazie, arrivederci, ciao. Parezzo. Francesco, provincia di Milano. Buonasera, Francesco. Sì, buonasera. Sono chiamavo per mandare un affanculo a Feltri. Perché? Perché a parte una persona meschina, viscida, schifosa, andare a rivangare una cosa così di Fiorello. Di Fiorello ha rischiato di morire, praticamente. Come dice lui stesso, è stato salvato dalla sua attuale donna. Ma poi ho fatto... Come ha affermato pure lei, non è che era grave l'intervento di Fiorello, non è che ha accusato, è una cosa tranquilla, però, guardi, io chiamo da Milano, ma vengo da Gela, quindi so cos'è la mafia, questo è proprio un intervento mafioso. In che senso mafioso? Per punire la satira di Fiorello su Berlusconi, dice lei? Una satira leggerissima poi. Non è sì, che no, dice, ma io adesso non mi ricordo esattamente. A toccare il mio padrone, sì. Io gliela faccio pagare. No, no, Feltri non ha. Feltri... Dica la sua. No, ma io ho detto, l'ho già detto. È sbagliato quando lei dice che Feltri. Ma non è la prima volta. Non è la prima volta. Che Feltri attacca Fiorello, non mi sembra. Che attacca Boffo, i calzini turchesi del giudice. Cioè, ma no, ma non c'entra niente. Qua che c'entra? Io... È pazzesco. Io non mi ricordo, tutto è nato l'altro giorno quando era all'Aria che tira, Feltri ha ascoltato una cosa di Fiorello, credo che fosse la canzone, il nuovo inno di Forza Italia se non sbaglio, cantato da Fiorello, e alla trasmissione di Mirta Merlino ha detto che non è giusto prendere in giro, infierire... Il più ricco d'Italia, il più potente d'Italia che sarà probabilmente di nuovo primo premier, che è circondato da una corte di ministri, cioè ma stiamo scherzando? No, ma io sono d'accordo con lei, ma sono d'accordo con lei. Se una persona debole, malata, si ricovera, perché questo sta tenendo in scacco l'Italia. No, ma è malato o no? Vabbè, lasciamo perdere adesso, sta parlando di Fiorello e di Feltri, non del caso Berlusconi, sì. Sennò altrimenti ci allarghiamo troppo. No, è perché lui è fondamentale, perché... Sì, ho capito, Francesco, la cosa fondamentale è questa, Fiorello ha fatto un pezzo dei suoi, non mi sembra che abbia fatto qualcosa in più rispetto a quello che fa di solito, cioè dire un pezzo di satira normale, ricantando Forza Italia, eccetera, sul ritorno di Forza Italia. Feltri non so perché, ma non credo che voglia, cioè volesse ma dare... Però è ma non c'è nessun messaggio a Fiorello, dai, su, ma non è che Fiorello, per carità, ha grande influenza. Però, dimmi, Parenzo. No, dico che adesso non c'è nessun messaggio, ha sbagliato, perché ha sbagliato, che senso ha criticare, l'hai detto tu prima, bene, un attore, e questo vabbè, si può fare, ma tirar fuori la roba della cocaina, ma è proprio un po' meschino, no? Perché chi se ne frega, perché? No, lui dice che non bisogna infierire su chi ha delle disgrazie, siccome Berlusconi è un condannato, è un uomo politico. Berlusconi è un uomo politico. C'è una differenza tra un uomo politico e un artista. Com'è che dice Cacciari? No, ma è un uomo politico, politico, lo capisci o no? Che ovviamente la domanda è retorica, perché non lo capisci se te lo chiede, no? Lo capisci o no? E quindi è un uomo politico, no? Che differenza? Cioè, chi se ne frega se Vasco Rossi ha avuto dei problemi di depressione, tirarlo fuori? Dice, non abbiamo infinito su Vasco Rossi che ha avuto dei problemi di depressione. Ma chi se ne frega? Sarà un problema dei suoi fan, poverini, che non hanno potuto ascoltare. Il Berlusconi è un uomo politico, quindi è chiaro che non solo che si fa ironia, lo si piglia per il culo, ma lo si critica pure. Cioè, lei è un artista, lo si deve criticare solo se fa ridere o non fa ridere. Fine. E adesso attenzione, fermi tutti, tappatevi le orecchie. Segreteria telefonica. Tormenta la mia noce. Bisogna ricordare a Paolo Brosio che il Dio castiga chi non lecca la figa. Cruciani, sono Sgarbi. Ho deciso di romperti i coglioni anche qui sulla segreteria telefonica che avete messo, tu e quell'altro coglione di Parenzo, perché voi due siete un gruppo di pezzi di merda che fate stronzate. Non so se hai capito, e lo sai benissimo, che sei una zucca vuota. Hai capito, Cruciani? La tua zucca è vuota. Va bene? Fanculo. Cruciani e Parenzo, siete diventati i più truggidi maestri di volgarità e di sconcezze varie. Radio 24 è anche mia. Non rovinatela con il vostro turpiloquio. Dottor Cruciani, sono l'avvocato Chiesini, ma vi sembra il caso di continuare a parlare così del presidente Berlusconi dopo quello che è successo anche ieri? Ma ditemi voi se in un paese civile il dottor Berlusconi adesso il 4 ottobre la giunta per l'immunità del Senato ha come nuovo relatore il presidente della giunta di Selli, il dottor Stefano. E allora se volete veramente migliorare questo paese, perché non vi unite a lui, tutti e due, sia tu che Parenzo? Va bene? Senti, a proposito, sto 02-46-52, ma che è in Terribana, non è che mi arriva una cifra di infostrata che non la posso pagare, perché io sono pensionata, però purtroppo quello che mi sento da tutto lo dico, giusto, ciao, state bene. Mi vergogno un po' a dirlo, ma il 25 agosto ho fatto l'amore con Parenzo allo Sheraton a Firenze. È stata una cosa bellissima. Innanzitutto lui ha una classe incredibile. Mi si è presentato con un tanghino fucsia, vero? E poi mi ha fatto la danza del ventre. O come muove il bacino lui? Non muove nessuno. Poi c'ha questo neo sulla chiappa destra, è sexy da morire, bacia come un drago, vero? È veramente uno spettacolo, non me lo sarei mai aspettata una cosa del genere. È inutile dire che devi smentire questa cosa, devi smentire questa cosa ovviamente, no? Beh, è inutile che voglio dire, intanto voglio immediatamente, ho fatto sequestrare dalla Guardia di Finanza di Milano, stanno arrivando lì in redazione, in altri. Ho già dato ordine alla Procura della Repubblica di Milano e di Trani, in genere la Procura di Trani è molto, fanno indagini ottime, di indagare su chi ha telefonato, sequestrare le bobine e chiedere il sequestro della radio e delle antenne di Radio 24. Ma come il sequestro? Sei impazzito. Sì, sequestro degli studi. Ho già mandato al professor Carlo Taormina di far sequestrare gli studi della radio, che è molto grave quello che è accaduto, molto. Dai, ma Parenzo, Topolino, Parenzo, siamo seri. Allora, non vorrei ingoiarla di un sol boccone. Eh no, cara pitonessa, 0246. Ricorda la storia, questa roba che ha detto, di vabbè, lasciamo stare che stiamo degenerando. 0246 52 40 10, 0246 52 40 10. Io ti saluterei a questo punto. No, aspetta, tanto mancano due minuti. Voglio dire una cosa, ancora non riceviamo delazioni, sputtanamenti del vicino di casa, denunce di sopraffazioni, storie di corna e cose di questo tipo. Cioè, cavolo, lasciateci dei messaggi, non solamente insulti a Parenzo, imitazioni pure bellissime, per esempio quella dell'avvocato Chiesini era strepitosa, però molto insomma, bello. Dai, siamo seri, dai. Dai, Sofia. E vai. Emanuele, provincia di Bari, su. Non dice dai, dice vai. Pronto? Sì, no, appunto, vai. Pronto? Sì. Emanuele, sì, su, sì, andiamo. Buonasera, dottor Cruciani. Sì. Cortesemente, quando prego, sarà possibile, sì, mi farebbe piacere ascoltare, sì, anche con un piccolo spazio, sì, dei commenti sia da parte sua che dei suoi, sì, graditi ospiti. Sì, prego, se vuole fare il palinsesto, prego. Su che cosa? Sul maschicidio. Beh, adesso il maschicidio no. Adesso il maschicidio, sì, no. Sì, sì, ci sono anche dei casi di uomini uccisi dalle donne. Benissimo, e allora? No, ma non uccisi, perché guardi, c'è una violenza in giro che è peggiore di quella fisica. Cioè, la violenza di donne nei confronti degli uomini, sì, dice lei? Sì, le donne, non tutte, ci mancherebbe, ci sono donne che hanno la capacità di picchiare psicologicamente gli uomini. Per esempio? Sua moglie, per esempio. La mia ex moglie. La tua ex, beh, certo. Sì, chiaro. Sì. Però ecco, giusto se c'era la possibilità, sì, di facciamo perché guardi, il femminicidio oggi se ne parla tanto e c'è tutta la mia solidarietà, ci mancherebbe, però io esiste vivo... anche il maschicidio, vabbè, d'accordo, esiste, ecco. Vabbè, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Chi c'è qua? Giovanni da Cremona. Buonasera. Ciao, ma... Franco. Premetto prima di tutto che vi voglio bene come i ragazzi del bar che dicono un sacco di stronzate. Però come da ragazzi del bar che dicono un sacco di stronzate, non potete permettere a quelli di Ferrara di dire delle stronzate assolute come voi. Se non può dire che dire mignotte donna non è un reato, perché è un reato. No, e ma che questo, reato? Sì, motivo, può essere un reato, che è quello di diffamazione. Motivo, che cosa? Qual è il reato? Dico solo questo. Il motivo che non è una stronzata fare una legge sulla offesa ai gay o vi dicendo, perché il reato c'è già. È offesa, in determinati casi si profila la violenza privata. Se io dico troia a una donna, certo, è ripetutamente violenza privata. Beh, appunto. Allora crede che si possa dire proccio, stronzo. La libertà. Ma questo vuol dire la tua. Benissimo. Allora questo dimostra che però una legge in teoria c'è già. Una legge in teoria c'è già, perché bisogna aggravare? Vabbè, chi se ne frega. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Alla fine della vita c'è il paradiso e c'è l'inferno, e chi va secondo vive secondo le leggi di Dio va in paradiso, e invece chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto dritto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Che il Signore vi benedica tutti, vi spiri sempre il bene. Radio 24. La passione si sente.